24 mattino. Pharrell Williams, siamo tornati a 24 mattino. Sapete dove è tornata magnificamente questa canzone? È tornata nel film Cattivissimo 3. La canzone che già ha lanciato un altro successo ed è bellissima, perché c'è la scena dell'evasione con tutti i minions che invadono i corridoi di un carcere, e nel carcere ci dovrebbero stare alcuni citrulli, fantastici citrulli, di cui parla bene oggi Michele Serra. Dalla regia mi dicono spoiler. Ragazzi, ma qua non si può neanche più citare un film, già lo, si spoiler. Ma spoiler è un verbo orribile. Allora, esistesse un Nobel per l'idiozia, un buon candidato, scrive Michele Serra, la sua amaca che non leggevo da un po' di tempo, sarebbe la signora dell'Ontario che ha fatto irruzione al comizio di un candidato indiano Sikh, attenzione, accusandolo di voler introdurre la Sharia in Canada. Ma un secondo candidato, per essere equanimi, potrebbe essere lo stesso indiano Sikh che, anziché invitare la signora cortesemente a valutare il fatto che lui non è musulmano ma induista e a levarsi immediatamente dai corbelli, termine interreligioso, invita i presenti a essere cortesi con lo stesso intonando una specie di nenia a base di amore e coraggio, scrive Michele Serra raccontando questa meravigliosa scena che si rintraccia anche su YouTube. Mettiamola così, dice Michele Serra, dovrebbe esserci una soglia di ingresso per partecipare alla vita pubblica. La xenofobia paranoica che rinfaccia un induista di essere dell'ISIS, si sa, è tutta gente con barba e turbante, non avrebbe diritto né di prendere la parola in un'auto pubblica né di uscire senza essere accompagnata da un buon medico e da un buon insegnante di geografia, meglio se da entrambi. E intorno alle idee, intorno ai grandi temi, intorno alle polemiche che dividono, c'è ovviamente quella sulla legge Fiano, di cui parliamo anche più avanti e parliamo tanto. E andiamo a sentire un'opinione diversa, però, che io condivido, pensate un po', sul Giornale di Stenio Solinas. E scrive il corsivista del Giornale in prima pagina un lungo pezzo in cui sostiene questa tesi, no? Chi posta una foto così finisce in galera. C'è un testone di Mussolini, se non ve lo descrivo non lo capite. E poi Solinas che dice la priorità del PD è il carcere per chi pubblica la foto del duce. Si torna a parlare del fascismo e della sua apologia nell'aula di Montecitorio. Riprende infatti oggi alla Camera dei Deputati la discussione sulla proposta di legge che ha come primo firmatario il PD Emanuele Fiano. In buona sostanza, con questa proposta di legge si chiede un'integrazione dell'articolo 293 del Codice Penale. La formula proposta da Fiano, che l'Aula di Montecitorio è chiamata a votare, oggi recita così: chiunque propaganda le immagini e i contenuti propri del partito fascista, pur solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione e vendita di beni, commette un reato. E allora su questo, dicevo, questa è la notizia del pezzo di cronaca di Borgia, su questo interviene Stenio Solinas. È una norma d'autentica dittatura, una democrazia non vieta le idee. L'Italia pullula di ciò che Fiano e quelli come lui vorrebbero estirpare: immagini, monumenti, libri, dipinti, memorie familiari e storie personali. Il fascismo non è stato l'invasione dell'Ixos, come per carità di patria aveva teorizzato Benedetto Croce, è stato l'autobiografia di una nazione, come più lucidamente aveva capito Pietro Gobetti. Piero Gobetti, dovete sapere che era un liberale, e quindi io condivido al 100% questa analisi di Solinas, che è di destra, lontano da me, ma che ha molta ragione su questo punto. Ma adesso dobbiamo andare dalle parti della Papa Mobile. Io sento il dovere di gratitudine per l'Italia e la Grecia, perché hanno aperto il cuore migranti, ma un governo deve gestire questo problema con la virtù propria del governante, cioè la prudenza. Lo sfoglio ci porta ad andare verso Bergoglio, libero, sobrio come sempre, dice Bergoglio cambia idea sull'immigrazione, titola a tutta pagina, abbiamo convertito il Papa. Ma più che questa frase che avete sentito e potrete valutare voi stessi se si tratta di una grande conversione o di una cosa di buon senso, per me è bella l'immagine di questo Papa incerottato che è andato a sbattere, questo Papa che porta su di sé i segni, le ferite, la storia. Ricordo qualche anno fa l'invito meraviglioso alla fiction sulla sua giovinezza, il Papa giovane, gesuita e prudente, quello di oggi meravigliosamente pop. E cambiamo ancora e andiamo allora dalle parti delle notizie che fanno impazzire Maria Laura Crociani, che lavora in questa redazione. L'avevo detto, Melania Rizzoli, sempre su Libero, devo dire, oggi ricco di cose. Mamme via internet, offerte online per le donne che vogliono un bebè. Il seme dell'uomo arriva a domicilio congelato. Ve lo dovete leggere questo paginone. La cosa terrificante è il nome di questa ditta inglese. Si chiama Uomini Non Inclusi. Avete capito, ragazzi? Qua ci tagliano fuori anche al livello seminale. La verità apre con la sua campagna, devo dire molto interessante, su i contestatori bloccati, perché sono stati bloccati ancora, erano andati a contestare Renzi e tac, sono stati fermati. Allora si indigna Maurizio Belpietro sulla prima pagina della Verità e racconta: per anni Silvio Berlusconi è stato inseguito da una clac di contestatori. Ovunque andasse, il cavaliere era accompagnato da un insolito gruppetto che invariabilmente, appena lo scorgeva, urlava «Buffone!», trascinato in tribunale con l'accusa di aver offeso il presidente del Consiglio. Uno di questi protestatari, in servizio permanente, si giustificò dicendo che il premier aveva capito male perché lui non l'aveva accolto al grido «Oddio, quanto è bella questa, me l'avevo dimenticata» di «Buffone!», ma l'aveva soltanto chiamato puffone. E quindi che il grande puffo, sostantivo che certo non poteva essere considerato come un insulto grave, era ovviamente una linea difensiva, ma in realtà il pezzo di Belpietro e quello di Giacomo Amadori raccontano questa cosa. Alla festa dell'Unità di Arezzo, decine di truffati alle banche aspettano l'ex premier, entrano solo in quattro, la testimonianza: ci hanno trattato come l'ISIS. Il Viminale, un po' dissociandosi, il buon Minniti, iniziativa delle questure, il segretario del PD rilancia: i risparmiatori li abbiamo salvati. Forse è giusto, si può sottoscrivere al 100% la conclusione dell'editoriale di Belpietro. Le domande non hanno mai fatto male a nessuno. E si discute molto bene di economia. E il Sole 24 Ore ci dà una grande notizia che voglio tenere fresca per fra poco, ma chiudo questo frammento della rassegna con il nuovo titolo del libro di Vittorio Feltri. C'è un'intera pagina, ma non posso leggere tutta la pagina, vi dico solo il titolo: sobrio, pacato, come sempre, Vittorio Feltri, chiamiamoli ladri, perché noi italiani siamo tutti ladri. Ci vediamo fra poco. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Mattino. Sisters and I have one wish before we die. And it may sound strange, Le note lunari bellissime di Sting, 24 mattino, rassegna stampa, Luca Telese. Questo è il tè nel Sahara. Perché ci sono queste note? Perché oggi, se non leggete il sole sull'economia, siete come delle falene cieche. Allora, la grande notizia del giorno: il tè compra l'aceto. ABF, il colosso inglese che controlla il marchio Tè Twinings, infatti prende il controllo del gruppo Acetum. Ce lo raccontano Carlo Festa e Ilaria Vesentini con la loro corrispondenza da Cavezzo, Modena, dove si è celebrato questo matrimonio, che ovviamente alimenterà discussioni, polemiche. Gli inglesi di ABF, Associated British Foods, mettono sul piatto una cifra record per conquistare l'aceto balsamico italiano. A passare di mano il gruppo Acetum, ceduto da Clessidra, a una valutazione di circa 300 milioni, compreso il debito. L'equity, cioè la liquidità incassata dai precedenti azionisti, raggiunge quota 225 milioni di euro. Il cambio di proprietà al superprezzo ha sollevato molti interrogativi, in quanto, scrivono i due giornalisti del Sole 24 Ore, viene ceduto all'estero un altro ennesimo simbolo del Made in Italy alimentare. Non condivido, spiega Cesare Mazzetti, riportato sempre da Festa e da Vesentini. Non condivido, spiega Mazzetti, perché tanto clamore attorno a un'operazione prevedibile per un fondo come Clessidra, entrato nel capitale della società quasi 3 anni fa, la cessione non mette in pericolo una tipicità del Made in Italy, anzi la valorizza, perché la produzione di un IGP non può che restare su un territorio a prescindere dalla bandiera e dalla proprietà. Cioè ti dicono, guarda che... se c'è una cosa che non può essere delocalizzata è la produzione dell'aceto. In linea di massima potrei essere d'accordo, ma guardate, mio padre era nato a Torre Annunziata e sui pacchi e lavoiello c'è scritto la pasta di Torre Annunziata e non è più fatta a Torre Annunziata, quindi non è sempre vero. In questo caso speriamo che lo sia. Grande divisione su un rapporto che racconta ovviamente l'esito degli 80 euro, un rapporto della Banca d'Italia. Per raccontarlo, per dire quanto sono belli i giornali, i due titoli. Il Messaggero dice: gli 80 euro hanno prodotto sviluppo economico. E poi Libero, c'è la prova che flop gli 80 euro, fantastico, ma se volete ve lo andate a leggere. Altro titolo bello: il diavolo investe Prada, Daniela Mastromattei, sempre sul Libero. Ha deluso anche l'ultima collezione, ricavi in calo, il gruppo di Miuccia scivola in borsa. E ancora ovviamente si parla dell'aceto, Google ricorre alla maxi multa, ma questa mi fa ammattire, Cina, questi sono duri, sono tosti i cinesi, alto là all'import di Taleggio e di Gorgonzola, dal Messaggero. Proclamo il signor Petazzoni illustre accademico del Gorgonzola DOC. Ma una buona notizia, mentre Sting continua a cantare, ecco, robot e auto spingono l'industria, ve lo dicevo su Sole 24 Ore, Luca Orlando, pagina 5, a luglio sesto risultato utile consecutivo e aumento della produzione del 4.4% rispetto al 2016. I buoni risultati degli ordinativi dei mesi scorsi trovano evidenza nei dati di produzione. Le esportazioni e la fiducia delle imprese fanno pensare a un consolidamento, ma quello che traina è il settore dei robot industriali, quello della cosiddetta economia 4.0. Mi scrivono: ma perché dici pagina? No, non dico pagina, dico pagina. 349-238-6666, il solito pignolo che qui alla regia mi dice: ma stai dicendo Sting invece sono i Police? Sì, va bene, una canzone dei Police che Sting ha interpretato 100 volte, sia come leader dei Police sia come solista. Ma ovviamente qua siamo all'Accademia della Crusca, 24 mattino, l'Accademia della Crusca, produzione industriale si salva. E arriviamo alle vitalizi. Concetto vecchio su Repubblica, i costi della politica, Parlamento scatta il vitalizio per 600, ma noi, dicono, abbiamo pagato i contributi. Sì, perché che cosa succede? -3. Venerdì 15 settembre è una data, scrive Concetto Vecchio, che i parlamentari esordienti hanno cerchiato in rosso. Quel giorno matureranno il diritto alla pensione che scocca dopo 4 anni, 6 mesi e un giorno della legislatura. Uno dei motivi, secondo i più maliziosi, per cui alla fine non si è andati a votare dopo il referendum del 4 dicembre. I più maliziosi, Concetto, ma figurati, lo sanno tutti. Questa è la vera norma di fiducia costruttiva. Le legislature in Italia non cascano più perché c'è questa norma. Scrivetelo, 4 anni, 6 mesi, un giorno e poi ti becchi il vitalizio, che però è molto, molto diminuito. E qui vi sorprenderò, perché secondo me non è un compenso eccessivo che dopo 5 anni uno in cui ha fatto il parlamentare possa avere, pensate, nella versione minima €500 al mese, dopo però il raggiungimento dell'età pensionabile. Allora non dovete fare il paragone con un metalmeccanico, dovete fare il paragone con quelli che si prendono 25 milioni di euro dopo 6 mesi che hanno amministrato magari una società dello Stato. Allora, dobbiamo entrare in un altro cambio marcia importante, ma ovviamente non adesso, perché mi sembra che la vicenda di Roma, la nuova vicenda di Roma, meriti veramente un altro ritmo, ed è la vicenda dello stupro. Ciò che è accaduto è ingiustificabile, e lo voglio dire pensando in particolar modo al fatto che è stato, da quello che sembra, da quello che risulta, un atto commesso da due persone con un uniforme. Allora, Renzi parlava di Firenze, ma la notizia è lo shock. Messaggero, primo piano, shock in centro. Finlandese violentata, agli arresti un bengalese con visto di soggiorno per motivi umanitari. La ragazza era appena uscita da un pub, aggredita anche una studentessa inglese. È un dramma, sembra una follia. L'ha agganciata con il sorriso e con una carineria. Se il taxi non arriva, tranquilla, ti accompagno io a casa. Roma di notte fa paura, il mostro, che schifo. È bastato girare l'angolo, un lavapiatti bengalese di 25 anni, in Italia con un permesso per motivi umanitari, si è trasformato in uno stupratore brutale, pronto a non fermarsi neanche davanti alle urla dei testimoni alla finestra. Smettila, vattene! Non albeggiava ancora nella notte fra venerdì e sabato, quando la vacanza studio a Roma per una 23enne finlandese si è trasformata nel peggiore degli incubi, presa a morsi, a sassate, stuprata, derubata e anche minacciata di morte. Zitta o non esce vivi. Sullo sfondo, la Roma multietnica a un passo dal centro e dalla stazione Termini. Ebbene, questa notizia, che ovviamente è su tutte le pagine, si richiama e ci fa pensare a quella di Firenze, dove c'è un'altra novità. Repubblica, Franca Selvatici, il procuratore sui carabinieri forse non era la prima volta. Forse non era la prima volta perché tutta la tipologia, la struttura, il modo di operare di questi due carabinieri ci danno l'idea che c'era una serialità. E voglio dire una cosa, sentendo ieri le telefonate della Zazzara, alcune un po' demenziali, le americane un po' scollacciate che volevano fare sesso, ma secondo voi, se le avessero veramente invitate a casa questi due carabinieri, perché il rapporto è stato consumato in corridoio? È una balla questa delle americane che volevano disinibite fare sesso. Era una vera e propria balla. Però i dati che poi stupiscono, perché spesso si dissociano dalla cronaca, il dossier, importante che Repubblica lo pubblichi oggi, pagina 13, emergenza stupri, in Italia meno che in Europa, pensate. Gli esperti, il sommerso fa paura, nel nostro paese si registrano 11 denunce ogni giorno, 11 denunce ogni giorno, 4.000 l'anno, mentre in Germania ci sono 27.000 casi. Le violenze sessuali in Europa, voi dite dov'è il paese in cui ci sono più violenze sessuali? La Danimarca. E poi l'Olanda, Dunque, in Danimarca, con, è importante anche dirlo, però saranno circa 6 milioni, 1.125, in Olanda 17 milioni, 6.000, nel Regno Unito 53 milioni, 35.000, in Irlanda 4.7 milioni di abitanti, 1.608, in Francia 66 milioni di abitanti, 19.985 e in Italia con 60 milioni, quindi fate il rapporto per esempio con la Francia, 4.000. È un dato veramente sorprendente. Negli Stati Uniti allarme nei campus, racconta Arturo Zampaglione, il 20% delle giovani è vittima di violenze. In Germania, la notte di Colonia, ci racconta Tonio Mastrobuoni, sono tutti articoli di Repubblica, ha portato a cambiare la legge. Nella Francia delle banlieue, racconta Pietro Del Re, sono più frequenti gli abusi sessuali. È veramente una piaga, è una piaga che ci sconvolge, ma è una piaga, come vedete, che attraversa il mondo. Solo un frammento del pezzo di Concita De Gregorio, che chiede uno sguardo sulle vittime, e praticamente ci scrive le categorie non spiegano niente, i neri non sono tutti uguali come i bianchi non lo sono, come i medici, come i politici, i direttori di giornale, i conducenti di autobus, i carabinieri, sono persone, possono non avere nulla in comune, proprio niente, essere agli antipodi. Le vittime invece hanno qualcosa in comune, sono tutte donne. Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta. Ventiquattro mattino. Non vorrei dire nulla, perché quando arrivano questi accordi, Passenger. Ci pensa di più, ci lavora. Carlo Tarallo racconta, lo accennavo, ma ora è meglio parlarne meglio. Vuole candidarsi alle prossime elezioni politiche a Napoli con Forza Italia. La fidanzata di Silvio Berlusconi non vede l'ora e al suo ragazzo l'idea non dispiace. Al suo ragazzo. Certo, se c'è un ma, se Berlusconi dovesse essere graziato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e quindi tornare candidabile, la Pascale difficilmente potrebbe pensare al Parlamento. Ma se questo non avvenisse, la strada verso Montecitorio potrebbe essere tutta in discesa. Lei intanto, stando a quando trapela da Arcore, ci crede. Non vede l'ora di impegnarsi in campagna elettorale. I temi sul quale picchierebbe? Il Sud, i giovani, la battaglia animalista, quella per i diritti civili. E andiamo! Nuove tensioni dentro i 5 Stelle. Ce n'è per tutti oggi! Scoppia un caso fico. Ha fatto scelte di parte, nomine in commissione, la replica nessuna cordata, cioè si contesta a Fico che si è candidato di essersi candidato. Mi sembra una cosa un po' strana. Berlusconi, lo sapete, da giorni vuole rientrare in Senato e avrebbe detto ai suoi: appena entriamo facciamo una legge. Dicevo, Fico era il pezzo di Buzzi sul Corriere e questo è il pezzo di Paola Di Caro, sempre sul Corriere. La carta da giocare, se a Strasburgo non decidono subito, è l'opzione della riabilitazione. Renzi davanti al bivio, deve decidere dove candidarsi per misurare il consenso, ma aveva già detto che correva ad Arezzo. E poi certo non è il posto migliore, con tutti quei risparmiatori arrabbiati, se state vedendo quello che abbiamo raccontato, cioè il racconto di Libero sulle contestazioni fermate. Quella era Maria Teresa Meli, e invece Monica Guerzoni, così come tante altre su Repubblica, ci raccontano la perla della giornata. Pisapia fa pace con MDP. Ora, Pisapia doveva essere il leader di questo movimento che prende l'abbrivio da MDP, cioè i bersaniani e il resto della sinistra, e ci litiga ogni giorno. Pisapia, deciditi! Da mettere mentre lì, come una perla, il condottiero vichingo in Svezia era una donna. La rivelazione grazie al DNA di uno scheletro trovato a Birka, Luigi Offeddu, sempre sul Corriere, ed è veramente molto molto bello. Ma la perlina, la candidata col curriculum ritoccato, sempre sul Corriere, Federica Argentati, 52 anni, dirigente regionale, sarebbe una candidata assessora, e sul blog di Beppe Grillo è apparso il suo curriculum. Sapete che la rete è micidiale. Sono andati a scannerizzarlo e si sono accorti che nel curriculum era perfetto, c'era tutto, solo che avevano ripulito delle voci ritenute evidentemente scomode per la candidata. Si trattava infatti di una collaborazione, pensate, udite udite, con la fondazione Coca-Cola e il sostegno entusiasta all'Expo di Milano. Ai ai ai ai, Federica! Segnalazioni importanti, due pezzi contro Rossi Marcelli, uno sul Libero, l'altro sulla Verità di Giorgio Gandola. Devo dire pacato quello di Gandola, quello sul Libero di Gianluca Veneziani un po' più aggressivo. E vabbè, ma questi erano la coppia gay simbolo, ricordate la notizia che vi abbiamo dato ieri, e adesso divorziano. E non si può fa. E invece sì, se sono come le coppie normali eterosessuali, forse addirittura questo piccolo divorzio della famiglia modello, due papà, tre figli, la famiglia Rossi Marcelli, forse è un altro passo verso la grande normalizzazione. (349) 238 6666 per i vostri messaggi, 800 24 00 24. Allora, anche il Sole racconta questa favola dell'iPhone, tutti ovviamente puntano su questo tetto sfondato, i 1000 euro di prezzo dal melafonino, raccontano Franceschi e Valzania sul Sole, arrivano 2/3 dei ricavi, l'azienda punta a differenziare il business, ecco come pagare o finanziarsi con la mela, basterà un movimento dell'iPhone e muoveremo capitali. Ma volevo rileggere qualcosa di più, proprio abbiamo ancora qualche secondo, del pezzo di Assante su Repubblica, in cui racconta un po' l'epopea, è un pezzo un po' più raccontato. Pensate che la ministra Fedeli oggi annuncia che ci sarà un protocollo per portare gli iPhone in aula. Ecco, le due categorie novità di questo iPhone sono state spoilerate: il riconoscimento del volto, che praticamente te metti il telefono davanti e quello ti riconosce, boh, e chi se ne frega. Ma dicevo, è interessante questa morale. Abbiamo detto un computer, una console, un videoregistratore, uno strumento musicale, un televisore, la fotocamera. I device da 1000 euro sono costosi solo se si guarda, schiacciante, come telefoni, solo se li si usa per gli SMS, per le mail, funzioni per le quali basta un cellulare di costo enormemente più contenuto. Ma il cambiamento è generazionale. Nessuno al di sotto dei 30 anni usa lo smartphone solo per questo, e chi è al di sotto dei 20 fa un uso degli smartphone ancora più creativo. Non sarà certo, scrive Assante su Repubblica, il prezzo molto elevato a frenare il successo del nuovo device di Cupertino, almeno secondo gli analisti. D'altra parte, puntare sui modelli di fascia alta, sempre più costosi, è una strada già esplorata nei mesi scorsi dalla Galaxy, dalla Samsung con il suo schermo Infinity, dalla LG col V30 che realizza video professionali. Ma finora nessuno aveva toccato quel tetto, 1000 euro. Restavano una curiosità per maniaci come il Red Hydrogen One con lo schermo olografico, o il Granite Phone, perché sarà di granito, che offre il massimo della protezione dei dati. L'arrivo dell'iPhone 8 cancella lo scenario, lo cambia, facendo diventare gli smartphone di fascia alta un lusso di massa. Ecco, forse questa può essere la morale di oggi. siamo tutti tesi a inseguire questi nuovi consumi. Io per esempio me lo sogno di notte, ma il lusso di massa è forse la grande febbre del tempo, quella che ci fa fare tante follie ma ci fa andare anche avanti. Giornale Radio.